si fatta una vesta scollata, non capilla quei nastri e quei rose, stiva mezza tre o quattro sciantose, e parlava francese a così. Fui la triera che d'accia incontrata, fui la triera tu l'ete, gnore sì. T'aggia voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'è mamma ch'io, ma è voto tu, distrattamente pensa a me. Regine, quando stiva con me, non mangiava capane e cerase, noi campavamo i vase e vase, tu cantavi e chiagniva per me, e io cartilla cantava buttica, reginello va bene sto re. T'aggia voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'è mamma ch'io, ma è voto tu, distrattamente parla. Cartilla ti aspetta stasera, non ho vita già per ta caiola, reginella è volata e tu vola, vola e canta non chiagnere ca, ti ha trovato una patruna sincera che è più degna sentirti cantare. T'aggia voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'è mamma ch'io, ma è voto tu, distrattamente chiamami.